Voci d'impresa, speciale Pechino. Buongiorno, appuntamento speciale con Voci d'impresa, speciale da Pechino, e ci troviamo infatti proprio su Piazza Tiananmen nel Legation Quarter con un ospite d'eccezione che sta cercando di prendere la Cina per la gola. Claudio Sadler, uno dei più noti cuochi italiani, sbarca a Pechino con un suo ristorante dopo essere già presente a Milano e a Tokyo, mercato simile, ma lo vedremo con consistenti differenze. Buongiorno signor Sadler. Buongiorno a voi, grazie di questo invito. Allora, sbarcare in Cina e provare a prendere i cinesi per la gola con la sua cucina, la sua arte culinaria. Impresa difficile, con quali armi va ad affrontarla? No, difficile non è così difficile, perché conosciamo bene il nostro mestiere, quindi lo facciamo con passione ed edizione, e le cose più difficili sono il reperimento dei prodotti di alta qualità e l'organizzazione esterna. È molto difficile avere dei contatti con dei fornitori esterni, è molto difficile avere la puntualità, molto difficile avere una pianificazione, perché è tutto molto complicato in questo paese. Uno, perché c'è la difficoltà della lingua, e qui quasi tutti parlano solo il cinese, e soprattutto i fornitori, e quindi dobbiamo trovare, diciamo, dei filtri per arrivare nel reperimento delle materie prime, che comunque sono di buona qualità. Ecco, dal punto di vista del fare impresa in Cina, lei chiaramente può sfruttare un marchio già noto e conosciuto nell'ambiente, nel settore della grande cucina, ma dal punto di vista proprio dello sbarco in questo terreno, in questa nazione così particolare, come si è mosso? Ha ricevuto un sostegno dalle istituzioni italiane presenti nel territorio? Sì, abbiamo avuto un forte aiuto dall'ambasciatore Sessa, che è un appassionato gourmet, e quindi questo ha aiutato molto la nostra, diciamo, attività. E poi l'investimento è fatto poi da una compagnia cinese di Hong Kong, che poi provvederà a fare tutte le sue vicissitudini commerciali e economiche. Forza lavoro è cinese, e devo dire che sono persone di grande interesse, sono molto interessate alla nostra cucina, come ha interessato anche il cliente cinese ad assaporare i manicaretti italiani, perché hanno delle, diciamo, l'Italia e la Cina hanno delle similitudini nella preparazione di molti piatti. Particolarmente apprezzato sono i primi piatti, con mescolanza di sapori, o comunque con dei sughi, con dei condimenti abbastanza ricchi, piacciono molto ai cinesi. Dicevamo anche che in realtà poi i punti in comune sono più di quelli che si potrebbero immaginare. Ecco, da questo punto di vista, quali sono gli ingredienti, gli elementi che più ci uniscono alla cucina cinese? Beh, molte verdure, il pomodoro, che qui si trova in grande quantità, melanzane, cioè tutte queste verdure che fanno un po' parte del nostro patrimonio culturale, della cucina un po' del sud, e quindi qui si trova facilmente, cioè loro usano molto queste miscellane di verdure cotte nelle più varie maniere, che facciamo anche noi. E poi molto pesce, che si trova praticamente vivo qua, e questo è un po' un problema per noi, che non siamo abituati a dover combattere con questi pesci vivi per prima di metterli in padella. E delle carni, no, nella carne siamo abbastanza indietro in questo paese. Quindi da questo punto di vista ancora, diciamo, la cucina italiana presenta una maggiore varietà di piatti? Sì, io penso che l'Italia, diciamo, insieme al Giappone e la Francia, sia uno dei paesi al mondo dove si trova prodotti di altissimo livello, di altissima qualità. Il problema, che io ripeto sempre, è di poter fare in modo che le persone come me, gli chef che viaggiano, che stanno in giro per il mondo, possano essere il veicolo di collegamento fra i due mercati diversi. Purtroppo noi abbiamo sempre imparato dai francesi, o comunque vediamo i francesi come quelli che hanno aperte molte strade, e noi ancora dobbiamo iniziare a fare tutto questo, però è un grande mercato questo e chi produce in Italia dei prodotti di alta qualità, se si interessasse a fare dei collegamenti in questo paese, troverebbe sicuramente modo di fare buoni affari. Intanto in sottofondo sentiamo i rumori dei lavori in corso per la prossima apertura. Proviamo intanto a entrare in cucina. Cosa hai in mente per provare a conquistare una clientela che guarda l'Italia, sì, come paese del bel mangiare, del buon mangiare, del buon bere, ma che magari ancora non ha messo a fuoco quelli che possono essere dei prodotti? Non conoscono chiaramente quella che è la cucina attuale italiana, che per me si è evoluta moltissimo, si è molto raffinata, quindi diciamo che le proposte iniziali che io farò sono delle proposte abbastanza basiche, proprio per non mettere in difficoltà il cliente. Non mi piace mettere sotto esame il cliente o l'ospite, che io preferisco come termine in Italia, cerco di evitare di farlo anche qua. Uno, perché devo insegnare ai miei collaboratori, che sono cinesi, di utilizzare uno, i prodotti che non conoscono, due, le cotture che non conoscono, tre, il sale, che per loro è un elemento di scarso significato, invece noi siamo abituati a mangiare sapido, loro non è così, e poi hanno dei sapori che sono completamente diversi. Infatti i cuochi, io cerco di abituarli a mangiare all'occidentale, ma dopo due giorni non ce la fanno più e quindi dobbiamo ritornare a fargli il cibo cinese. Un piatto che già ha messo a punto, su cui si sente di scommettere dicendo questo sicuramente avrà successo e sarà gradito? Beh, sicuramente il risotto è un piatto che piace molto, il riso fa parte della loro cultura, io l'ho già preparato per alcune serate, è stato molto apprezzato, quindi dovrei trovare solo una gran qualità, ma adesso mi impegno per aprire dei canali interessanti. Invece dal punto di vista dei vini, quali sono i più apprezzati, più adatti ad affiancare su questo mercato alla sua cucina? Beh, ma vini direi che è tutto abbastanza aperto, diciamo che siamo riusciti a trovare dei buoni fornitori, non abbiamo una carta estesissima, in questo momento saremo intorno ai 300-400 etichette, abbastanza per soddisfare quelle che sono le richieste di un'apertura di questo tipo. Vini italiani ce ne sono abbastanza, ma non ancora molti, preferirei averne un po' di più. E questo paese però è stato abituato, come quasi tutti i paesi dell'area asiatica, ad apprezzare di più i vini francesi e americani, che hanno conquistato il mercato. Però vedo che comunque anche i nostri produttori italiani si stanno proponendo con grande piglio su questi territori, e il nostro vino è molto apprezzato, come è stato in Giappone, che nel giro di 4-5 anni hanno praticamente pareggiato, se non superato, come quantità i francesi. Quindi questo è un mercato aperto, bisogna darci dentro. Ecco, in questa prospettiva si sente di poter dare qualche suggerimento a chi guarda la Cina come possibile spazio di investimento, al di là del settore specifico in cui lei è impegnato e protagonista? Bah, qui devo dire che è tutto molto aperto. Gli investimenti sono, penso, facilmente possibili. È un paese che ha bisogno e vuole tante cose. Ci deve essere chiaramente una crescita esponenziale anche di quelle masse che purtroppo guadagnano molto poco, quindi non hanno la possibilità di spendere dei quattrini. Però devo dire che nello stesso tempo le fasce alte, medio alte, hanno una grande disponibilità di denaro, quindi un investimento mirato, attento, può essere fatto tranquillamente. Senta, siamo in clima olimpico, le chiedo un'ultima cosa, mettiamo che appunto una delle medaglie italiane vinte voglia festeggiare nel suo locale questo straordinario trionfo in questa Olimpiade tanto attesa, beh, qual è il piatto che Claudio Sadler preparerebbe per l'occasione? Beh, io non so, qui farei una cosa leggera, visto che gli atleti sono sempre così attenti alla loro dieta. Ho fatto una terrina di pomodoro mozzarella con un pesto di rucola, olio d'oliva extravergine, e quindi per un atleta può andare bene, a parte che loro possono mangiare tutto, non ingrassano facilmente come me, quindi questa cosa che mi sembra molto italiana. E infatti anche i colori bianco, rosso e Esattamente, verde, i sì. sapori. Fra pochi giorni partiamo, quindi l'abbiamo in carta e lo proporremo. Grazie allora a Claudio Sadler, in bocca al lupo per questa nuova avventura qui in piazza Tiananmen da Pechino. Voci d'impresa torna fra pochissimo. Voci d'impresa, speciale Pechino. Buongiorno da Pechino, ancora speciale Voci d'impresa Olimpiadi. Oggi ospitiamo un'azienda che di Olimpiadi veramente ha fatto la storia. Sono infatti 9 edizioni dei Giochi Olimpici che la Mondo, azienda piemontese italiana, realizza quello che di fatto è il palcoscenico su cui si celebrano le medaglie più importanti, cioè la pista d'atletica dello Stadio Olimpico. Ospitiamo quindi il rappresentante in Cina, il capo in Cina della Mondo, Andrea Vallauri. Buongiorno, signor Vallauri. Buongiorno a lei e grazie per questa ospitalità. Infinite emozioni sono passate sulle vostre piste e in particolare stanno passando in questi giorni sulla pista dell'avveniristico Nido, lo stadio di Pechino. Partiamo proprio dalle caratteristiche tecniche di questa pista, come è stata progettata, come è stata pensata e che tipo di pista è dal punto di vista tecnico, appunto. Questa pista, essendo la pista delle Olimpiadi, deve avere un qualche cosa di particolare, quindi in base anche alla nostra esperienza che abbiamo avuto nelle edizioni precedenti delle Olimpiadi, cerchiamo sempre di utilizzare l'evento Olimpiadi per avere qualche cosa di innovativo nel prodotto, nel materiale che presentiamo, ed è quello che anche abbiamo fatto qui a Pechino. Proprio in questo caso presenteremo un nuovo materiale che si chiama Mondo Track, studiato con gli atleti, con gli istituti di ricerca, con le università, per approfondire tutte quelle che possono essere gli aspetti biomeccanici della superficie, sia per quanto riguarda la risposta elastica, il ritorno di energia, che anche per quello che riguarda l'impronta, la trazione fra il piede dell'atleta e il manto sintetico. Quindi penso che abbiamo messo a punto un prodotto nuovo, un qualche cosa di innovativo sul mercato, e speriamo che i risultati ci diano ragione. Beh, insomma, direi che il battesimo fatto da uno degli atleti più attesi qui alle Olimpiadi, Liu Chan, il grande ostacolista, campione ad Atene 2004, è stato più che positivo, perché proprio il campione cinese ha detto: pista non troppo dura, non troppo morbida, ideale per la mia corsa. Diciamo, la vostra parte l'avete fatta, il resto dovevi metterla proprio Liu Chan per confermare quest'oro. Chiaramente, immagino che sia stato impegnativo, complesso, articolato il vostro rapporto con il BOCOG, con il comitato organizzatore e più in generale con le autorità cinesi per entrare in un mercato così particolare su cui siete presenti da tempo. Sicuramente dobbiamo dire che il rapporto che la Mondo ha con la Cina dura ormai da 25 anni, perché la prima volta che abbiamo messo piede in Cina è nel lontano 1983. Altra Cina, altri mondi, altre realtà. Poi da quel momento noi siamo sempre stati presenti, abbiamo potuto seguire l'evoluzione di questo paese, ci siamo affermati come società, come immagine dei prodotti qui in Cina, tanto è vero che tutte le grosse manifestazioni sportive di atletica hanno sempre utilizzato i nostri prodotti, per cui ci siamo fatti una certa reputazione, e questo ci ha aiutato non poco nel momento della negoziazione, della finalizzazione di questo importante accordo con il BOCOG, tant'è che siamo risultati la prima ditta straniera ad acquisire il titolo di fornitore ufficiale, e questo sicuramente è stato per noi una grossa soddisfazione. Senta, parlava proprio di fiducia, relazioni, ma diamo un piccolo suggerimento a un imprenditore che magari vuol provare a sbarcare su questo mercato: ma come si conquista la fiducia di questi cinesi? Che visti da Occidente, dall'Europa, di perplessità e diffidenze ne sollevano ancora molto. le do un piccolo esempio, che è stato un alto dirigente cinese che un giorno mi ha detto: ricordati che per fare tutta la scala devi fare uno scalino per volta. E quindi con questa filosofia di un passo alla volta, di non, secondo me, mettere troppa pressione sui dirigenti cinesi a tutti i livelli, ma nello stesso tempo di essere molto costanti, molto perseguire l'obiettivo che ti sei dato, non volere strafare perché altrimenti li urti molto, perché sono molto suscettibili, e poco alla volta devi conquistarli come reputazione da un punto di vista di prodotto, di serietà aziendale, ma anche con un rapporto umano, perché non dimentichiamoci che in Cina la trattativa si fa, si conclude a tavola, è una convivialità, non è la trattativa pura e semplice di un contratto firmato su un pezzo di carta, è tutto un contesto che devi coltivare, e poi devi averlo con un uomo di fiducia cinese. Purtroppo questo è essenziale sia per il problema della lingua, ma anche per un problema di affidabilità, quindi è fondamentale individuare anche, io dico, il collaboratore cinese su cui tu fai affidamento. Quindi ecco, il ruolo dell'intermediario rimane comunque essenziale, malgrado che i rapporti Italia-Cina, estero-Cina siano sempre più frequenti, però c'è questa sorta di mediatore culturale, commerciale, imprenditoriale, che è ancora uno snodo chiave. Specialmente all'inizio, per uno che approda per la prima volta sul mercato, è fondamentale, questo è fondamentale. Poi con il tempo uno acquisisce queste nozioni, queste mentalità commerciali, però se all'inizio non parti con il mediatore, il rappresentante, non riesci a... ti trovi in contro un muro che è difficile da sfondare. Ecco, ma da questo punto di vista può un europeo ambire al ruolo di cinese? Può diventarlo, diciamo così, nella considerazione della controparte? L'europeo rimane europeo, e secondo me ha le carte importanti da giocarsi, e proprio se le deve giocare come europeo. Non deve mai diventare cinese, però deve acquistare la fiducia dei cinesi, questo sì. Quindi il cinese apprezza l'europeo e apprezza in modo molto importante l'italiano, perché c'è tutta una serie di affinità culturali, mentali, di approccio al lavoro, di approccio al business, che ci affinano molto fra Italia e Cina. Quindi questo è un grosso vantaggio, però dall'altro hai il problema difficile, insormontabile della lingua, e questo se non hai un locale che ti fa da intermediario. Dicevamo, cinesi, sappiamo, insomma, Cina aggressiva sul mercato, conquista fette sempre più ampie, anche con una concorrenza aggressiva che spesso si muove lungo i confini e spesso oltre delle regole imposte dalla WTO, dalla World Trade Organization, però cinesi che quando vedono la qualità non cercano di imitarla, l'acquistano e la riconoscono. È il caso della Mondo, è il caso di altre aziende italiane che conquistano spicchi di questi mercati. Anche questo mi sembra un'attitudine interessante, non è vero che copiano tutto? Io dico, copiano tutto, hanno anche copiato i nostri prodotti, però il prodotto cinese è e rimane un prodotto cinese, e devi vendere l'unicità, l'esclusività del prodotto italiano, devi vendere l'immagine, devi vendere il contesto, non solo il prodotto, e questo loro sono disposti, lo vogliono, nei casi importanti vogliono questa qualità, questa unicità, questa differenziazione che il prodotto cinese imitato non potrà mai garantire loro. Parlando della Mondo, parliamo di un'azienda che ha già conquistato appunto ampia parte del mercato internazionale, anche di quello cinese. Come mantenerle queste quote? Quali sono i pericoli che arrivano proprio dal mercato interno cinese, e quali invece gli aspetti più futuribili della vostra produzione su cui state lavorando per non perdere questo quid in più che vi caratterizza? La prima cosa è la localizzazione della produzione qui in Cina, perché questo è l'unico modo per poter essere competitivi, per poter essere presenti sul mercato cinese, poter essere flessibili, mentre invece un prodotto fatto in Europa, spedito qui, non riesce a cogliere l'attimo, come si dice, per cui sicuramente è la localizzazione. Anche se però con tecnologia, know-how, procedimenti italiani, con personale italiano, maestranze italiane, questo è fondamentale. Quindi dico, per essere più aggressivi, per essere più presenti sul mercato cinese, devi per forza produrre in Cina. Questa è la mia modesta opinione. Senta, piste della mondo che hanno celebrato tantissime storie olimpiche, sconfitte, vittorie, drammi, entusiasmi. In questa lunga carrellata olimpica, quali sono le immagini che più le rimangono nella memoria? Il campione che più le ha fatto piacere vedere festeggiare su una pista mondo? È difficile fare una scelta, è difficile individuare un momento, un campione. Ci sono delle immagini che ti rimangono così, dico. Uno è la vittoria di Baldini ad Atene, la maratona. Sicuramente è un fatto inaspettato, una cosa molto piacevole, anche perché era l'ultima gara delle Olimpiadi, quindi è stato un momento emozionante. Altri momenti, se andiamo indietro nel tempo, Carl Lewis, il grande atleta figlio del vento, con imprese importantissime. Un'altra, il Michael Johnson, che ha fatto anche lui cose strabilianti alle Olimpiadi di Atlanta. Chiaramente, in vista di Pechino 2008, immagino attenzione delle autorità, del comitato organizzatore, è massima su quello che è stato il vostro lavoro. C'è qualche episodio particolare che secondo lei è emblematico di questo rapporto e che abbiamo un po' analizzato in questa chiacchierata? Posso dare un esempio che penso rispetti quello che è la mentalità cinese. Abbiamo dovuto intervenire in una serie di lavori in un primo momento non previsti, e all'ultimo momento ci dicono: bisogna anche fare questo. Dico, va bene. E mi chiedono le autorità: quanto tempo ci vuole per fare questo lavoro? Io dico, ma presumo, se calcoliamo 10 persone ci vorranno 10 giorni più o meno. La risposta del mio interlocutore è stata: ah, benissimo, 100 persone un giorno. Una risposta, un esempio che è un business plan, insomma, se possiamo sintetizzarla così, è che è anche uno spaccato di una mentalità e forse anche di quel solco che, malgrado tutti la reciproca conoscenza, sarà difficile poi colmare pienamente, no? Esatto, perché effettivamente queste cose non è proprio un'equazione matematica. Certe cose richiedono delle tempistiche, delle modalità, che non basta usare un numero considerevole di persone, di risorse finanziarie. Bisogna anche avere l'esperienza, le conoscenze, ed è questo che in questo momento ci sta favorendo come imprese europee e imprese italiane, perché quello è il valore aggiunto che noi stiamo portando oggi in Cina e che nessuno ce lo toglierà mai, credo. Parole di speranza arrivano da Andrea Vallauri, responsabile in Cina per la Mondo. Nel rapporto che abbiamo con questa Cina economica che sembra così strabordante nelle sue potenzialità. Allora, grazie per essere stato nostro ospite, signor Vallauri, e tante altre belle storie olimpiche da augurare alla Mondo e alle sue piste. Buone Olimpiadi a tutti quanti.